Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Grande unitarietà interna, speriamo che insomma sia scrivibile effettivamente anche a quelli che oggi non hanno partecipato al gruppo, perché è vero che non ci si può iscrivere al partito di Matteo Salvini, ma nemmeno a quello di Matteo Renzi. Dobbiamo tornare ad essere la nazionale politica italiana e quindi portare avanti i nostri temi con convinzione senza soggiacere né a Renzi. Dopo un anno, dal 18 gennaio dell'anno scorso, che andiamo a dire in giro le riforme bisogna farle, la vocazione riformista di Forza Italia, oggi di punto in bianco votare il contrario di quello che hanno fatto i nostri senatori, votare contro, onestamente non credo, questa volta sarò disubbidito. Italia Prod, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo. L'ultima riunione del gruppo, straordinaria. Tutti voteranno no, quindi. Straordinaria, in cui in cima c'è l'unità, l'unità con Berlusconi. Tutto il resto sono chiacchiere. Italia Prot, la terra dei cachi. Beh, Brunetta è sempre il meglio del meglio, il meglio del meglio. C'è Forza Italia sfasciata, l'unità soprattutto. Forse perché si compra il giornale, no? No, l'unità, l'unità per Berlusconi. E voci di Forza Italia, d'altronde la politica regala questo, cari ascoltatori. Ma oggi sono molto felice perché rientriamo in diretta dallo studio a cui ero affezionato a Radio 24, ci sono stati dei lavori, abbiamo per mesi trasmesso in un altro studio, da un altro studio siamo tornati a casa, torna a casa Alessi, fai una foto Lorenzo Nespoli, dai, faccio una foto, io l'ho già messa su Twitter, c'è l'alpino Peter Bescapè in regia dallo studio principale, siamo tornati di Milano, di Radio 24. Se famo tu spaghi. Con 24 mattino, buongiorno a tutti voi cari italiani, forza, forza, debosciati d'Italia, unitevi, è pronta la 97esima settimana decisiva per la riforma elettorale, che ormai è avviata. Voglio subito dare il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666, ecco, però mi devo riorientare, perché adesso quello che era a sinistra è a destra e quello che era a destra è a sinistra, non so spiegarvelo se non così, voi che non mi vedete, perché è tutto simmetrico qui adesso, ma due giorni e mi rioriento, lo schermo è di qua, questo è di qua, va bene, Peter è di fronte, Lorenzo Nespoli è di fronte, siamo pronti, mi fate subito salutare quel gobbo malefico di Mario Adinolfi. Guardate che Peter è di fronte, quell'altro è di fronte, ma io sono davanti, 26 punti, insomma, volevo segnalare. Quanti punti? 26. Ma quale? Ma che 26? Ma tu ti inventi le cose. I campioni dell'Italia siamo noi. Ma abbiamo fatto per quanto tempo potremo cantarla sta canzone? Noi siamo biondi come quelli del Borussia Dortmund. Forza l'era per lui! E la infila all'angolino! Tutto dalla fine! Sempre, comunque, Paul Pogba! Ricordati perché noi siamo... Io grazie di essere stato così generoso con me, avermi fatto Juventus. Fai una preghiera, grazie. La preghiera di Mario Dinolfi. Di ringraziamento, Deo gracias, solo questo si può dire. Ma tu ringrazi mai Dio. Grazie di aver fatto Milan milanista, ci dà una soddisfazione. Ma tu ringrazi mai davvero Dio per averti fatto juventino? Ma certo. Cosa, ricordare insomma, le preghiere. Allora Marione oggi che bel coro oggi Marione, com'è il coro del Borussia? Mettiamo, vabbè, prepariamolo, è difficile quello, prepariamolo, possiamo studiare qualche commento. Allora Mario Dinolfi, qua dobbiamo presentare un nuovo ingresso al Parlamento. Sono molto felice, bellissimo. Uno che si sveglia presto pure lui, dai, una donna, intanto una donna si tratta di Veronica Gentili. Che saluto, attrice, blogger, scrittrice del Fatto Quotidiano. Veronica, buongiorno. Buongiorno a tutti. Una che si sveglia presto come noi mi sembra troppo, però diciamo che rantolante si è buttata giù dal letto, e se mi vedeste adesso tutto ho capito, qualunque tipo di appeal femminile è finito per sempre. Vabbè, questo lascia giudicare a noi, agli ascoltatori, a Mario Dinolfi. No, è Caruccia, la gabbia qualche volta. Ma come Caruccia? È Caruccia. Ma come ti permetti? Ma maleducato, ma sei un maleducato. Non va bene manco Caruccia. No, si poteva essere più entusiasti. Già la mattina leggo, capito, a tirarsi su fa fatica. No, ma Veronica Gentile è una splendida ragazza. Ma Mario, ma che sei matto? No, Caruccia stava bene. Ma lui così è il direttore della Croce. Adesso è tutto molto, molto, molto serioso. Non può sbilanciarsi. È giusto, ma non bisogna prestare attenzione a queste cosette, sono dettagli. Esatto. Sono d'accordo. Esatto. Allora apriamo il Parlamento, che siamo pronti a parlare. Adesso che? Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. De che? Cara Veronica, dai, dici un po' tu, sì, che pensi, sei della linea brunetta o della linea... Penso che Berlusconi stia vivendo così un momento di grande confusione sentimentale, dopo la seduzione per Matteo I c'è anche un'enorme seduzione per Matteo II. Secondo me è un po' attratto dal macho man, dalle prove muscolari, capito? Dici. Un po' stile il vecchio in ultra Claudio Amendola ai tempi. Se sei molto macho e tiri fuori il petto villoso, secondo me lui resta un po' stordito. Allora mi sa che è un po' invidioso dei Mattei, appunto. I Mattei anche secondo in questo me momento sono un po' più giovani, intanto cominciamo. Un po' più giovani. In realtà in questo momento in barba alla Patonza, infatti, la seduzione viene tutta quanta dal versante maschile per il povero Silvio. attenzione, no, che magari uno è Mario Dinolfi, li prende arrivato a un certo punto della vita. Non so, magari viene preso un po'. Se c'è uno su cui si possono fare queste battute, non rischiando di essere preso sul serio, Silvio Berlusconi. Riderà di questo. No, però la questione è molto semplice. Cioè, qui Forza Italia, vabbè, per chi è interessato da queste cose della politica, cioè pare che neanche Berlusconi sia interessato da questo. Caro Mario Dinolfi, ho letto che secondo i retroscena oggi c'è la Cassazione su Ruby, e quindi forse è il 200° pensiero quello di Berlusconi sulle riforme. Non gliene frega proprio niente. Il problema è questo: è il 200° pensiero di Berlusconi ed è il primo pensiero di parlamentari che sanno che non possono forzare la mano, perché è l'ultimo giro di giostra. Quindi molto semplicemente il buon Verdini, con argomentazioni semplici ma efficaci, tipo ma dopo che è andato a fare se domani si va a votare, è un'argomentazione, diciamo, il partito del mutuo, il partito del mutuo da pagare, ricordatevelo. Avendo fatto il parlamentare, ma chi gli dà 15.000 euro al mese? Il 95% di quelli senza fare niente, sapendo che tra l'altro veramente non hanno nessuna possibilità di essere rieletti. Cioè, quindi praticamente avete capito, Mario Dinolfi sta certificando, avendo fatto il parlamentare per qualche mese, che non si fa niente in Parlamento. Il parlamentare ha, non è vero, non si fa niente, è una cosa importante, ma il parlamentare ha come obiettivo, il lavoro del parlamentare è restare parlamentare, quello è il lavoro. Beh, sì. Guarda che è già una fatica. È quella che ho in tempi in cui si perde il lavoro, Veronica. Cioè, lascia fare, lascia fare. Bisogna stare ancorati là tutto il giorno, le unghie ti fanno male. Ma che scherzo. Il dibattito di riforme è divertente per questo, perché se tu leggessi il substrato, diciamo così, psicologico della minoranza DEM, dei Forza Italia, di quelli che dicono bim bo ba. No, dicono invece star lì, attaccati allo scranno, Veronica, per 15.000 euro, guarda che in questo dura. Senso la minoranza DEM, devo dire, vince su tutti quanti, con mio sommo rammarico, cioè andrei proprio a prenderli a pizza. Secondo me dovresti invitarli tu la mattina, la punizione potrebbe essere questa. Ecco. Se li inviti a turno, uno per uno, e sanno che devono alzarsi alle 5:30, può darsi che la prossima volta votano no. Ecco, vedi, ci sta già dicendo che l'abbiamo svegliata presto, caro Mario, ce l'ha già ribadito in maniera molto un'ora prima per preparare. Esatto, un'ora prima. Forza, scusatemi. Ascolta, io uso come sveglia. Fai come Maria Di Nolfi, attivi il cellulare acceso e quando suona dice sono in onda. Ma si vede che Mario ha navigato, infatti ho pensato beati loro che adesso con disinvoltura si alzano così Ma tranquilla, invece... guarda, Veronica, arriverai come Fantozzi quando metteva la sveglia sempre più avanti, l'ultima la metterai alle 6:28. Quando ti chiameremo ma a questo punto farò diretta, esatto, mi chiamerete voi e mi sveglierete, sarà la cosa più pronta. Tra l'altro, guarda, vuoi fare l'esperimento come Maria, sai che Maria Di Nolfi qui ha fatto un grande esperimento sociale che sta continuando, che è questo: dare il suo numero di cellulare in diretta da noi. L'ho sentita questa cosa molto simpatica, penso che nel mio caso non sia auspicabile. Secondo me no, ci sarebbero dei simpaticoni che no, però se lo vuoi, questa intuizione. Se vuoi però lo diamo noi al tuo posto. Grazie, ti ringrazio di questa proposta che mi fai, sei molto generoso. No, comunque. Diciamo operazione autogrill. No, comunque vogliamo ricordare Maria Di Nolfi perché è sempre in voga questa cosa. Allora, Maria Di Nolfi risponde al 334-3798-534, non ora, bravo. Come sempre Mario, che è occupato. Ricordiamo adesso. Ai cretini che sono all'ascolto, che sono molti, diciamo, che telefonare in questo istante fa trovare la linea occupata. Ecco, già sono arrivato, già sento ma è occupato adesso, non chiamate neanche durante il traffico, perché sta in linea con noi, perché se no, oggi dovrete dire ovviamente il titolo di pagina 5 della Croce Quotidiano, è la domanda per così, la domanda preliminare, la password, per poi parlare. Però io sono molto felice, visto che ho qua una donna, chiedere un giudizio sulla Boldrini, dopo che facciamo sentire la Boldrini, perché ha fatto questa, sai Veronica, che ha fatto questa campagna. Sì, lo so. Senti qua la Boldrini che insiste, la Boldrini, il genere è importante. E dal punto di vista grammaticale, me lo lasci dire, è un errore non declinare al femminile, e non lo dice Laura Boldrini, che non è una linguista, appunto lo dice l'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca, ancora, senti ancora la Boldrini, eh? Se io accetto di essere chiamata al maschile, accetto quella idea, allora accetterò pure di essere discriminata sul lavoro, accetterò pure di non avere pari accesso al lavoro, accetterò quella dimensione che purtroppo le donne subiscono ovunque. Ecco, io è questo collegamento, però mi taccio, tanto Di Nolfi ha già dato il suo giudizio. Noi l'abbiamo già fatta nera tutte quante sul Fatto l'altro giorno, ecco. Che abbiamo scritto per la festa della donna, abbiamo scritto sul tema di questa festa ormai al confine col ridicolo e col patetico, no? E come se non bastasse già la festa, come se non bastasse l'odore vetusto della mimosa, capito, che poi si polverizza tipo sarcofago. Sì, anche Madonna, mamma mia, l'ha presa, l'ha stracciata. No. Puoi dare le mimose a Madonna, cioè proprio è uno simoro, capito? Non si può fare. Non si può fare. Non si può proprio fare, e la Boldrini riesce sempre ad essere fuori luogo qualsiasi cosa fa, riuscendo proprio a rivestire il femminile di qualche cosa di improbabile, un eufemismo, capito? Riuscendo a rendere tutte quelle che sono state battaglie sensate a sminuirle in una maniera grottesca. Secondo me bisognerebbe opporsi alla Boldrini, cioè si dovrebbero fare manifestazioni. Addirittura, vabbè, Maria Di Nolfi, tu già la settimana scorsa hai dato il giudizio, poi hai ricevuto... Ho esagerato, mi è arrivato di tutto come al solito. Hai detto che la Boldrini ha rotto le palle. Vabbè, ho no, perché è molto meglio quello che ha detto Veronica. Quindi, sostengo la mozione, che devo dire? Mi era un pochino più popolare. Ma io non ho capito, ma poi ti è arrivata una querela per vilipendio? Ecco, no, la querela per vilipendio non ci può essere, grazie a te, il vilipendio. È la terza carica dello Stato. Ma non c'è il vilipendio del presidente della Camera. Mario, ma non ti ha nemmeno chiamato sul cellulare, la Boldrini? Sono arrivate le solito i segnali amichevoli della presidenza della Repubblica. No, della presidenza della Camera. No, cioè, chi è che ti ha chiamato? No, amici che lavorano da quelle parti. Ah, come che lavorano da quelle parti? Uno dei 25 dell'ufficio stampa, non so. Bravo, chi ti ha chiamato. Ecco, adesso ovviamente sarà anche una bella giornata per me, su, da parte mi vorranno bene alla Camera, e va bene. Comunque salutiamo con grande deferenza la presidenta. No, la deferenza non mi viene proprio. Come salutiamo? Saluti tu, cioè, la deferenza non viene. era un plurale maiestatis. Più che altro chiediamole alla Boldrini, ma perché? Perché lo fai? Il tuo così si fa, si fa per dire, sono tutte le cose di cui l'ho capito anche. C'è il collegamento, perché se tu adesso accetti, se accetti al maschile, diciamo, poi accetti la discriminazione sul lavoro, nella vita, poi non ti andare a portare un piatto di pasta in tavola. Se porti il piatto di pasta sei sottomessa e non si fa, non si perfetto fa. Quindi ho capito il progetto. Hai capito, è tutto chiaro. Però Veronica, c'è una cosa fondamentale che non ti ho chiesto. Ma tu segui il calcio? Purtroppo adesso dovrei mentire proprio così spaccata, ma non lo posso fare. No, guarda, quando si è parlato con gli amici vari di programmi di calcio, ma vieni, ho detto ragazzi, proprio sai, l'ignoranza assoluta, l'analfabetismo. Basta che non sei juventina, basta. Ecco, ma che c'è? Basta che la Boldrini non sarebbe fiera di me. No, basta che tu non sia juventina. No, dai, juventina no, sono comunque romana. Ecco, oh, brava. Brava, diglielo a Maria Di Nolfi che è di Roma e tiene la Juve, di testaccio. Io sono di testaccio. Di testaccio e tiene la Juve, ma vergogna. Ma qua cominciamo pure lo scontro tra quartieri adesso, no? No, ma se, vabbè, non lo sa perché è femmina, ma testaccio è il cuore del tipo romanista. Vabbè. Un po' lo so così, trasversalmente arriva anche a me. Io lo sapevo che andava a finire così. Vorrei tranquillizzare tutti gli ascoltatori che mi stanno scrivendo al 349-238-6666. Siccome Mario Niolfi ha detto è caruccia Veronica Gentili, sai, esiste Google e la gente adesso inizia a mandare dei commenti un po' da trivio, tipo il più pacato, altro che caruccia, è una gnocca pazzesca. Ma insomma, ci fermiamo qui, andiamo al traffico. Meno male, va, che così l'ego si sta svegliando. È meglio, va. 24 mattino. Milan, hai visto tutti questi mezzi busti televisivi, giornalisti, conduttori di talk show? Ridono sempre, anche quando annunciano disgrazie. Siamo rovinati, crisi economica, disoccupazione, ordine pubblico. E quelli ridono. Ma dove vivono? Sulla luna. Mannaggia loro, mannaggia. Si riunisce il comitato disciplina della Lega. Tosi, tieni duro, in fondo è un attimo e poi passa. Intercettazione telefonica. Pronto? Buongiorno. Parlo con Monte Carlo? No, ho sbagliato, qui è Montecitorio. Ah, scusate, ho sbagliato casino, è stato per buona. Burdè, la Citrop Seri, Basildo Risedi, due belle risate, Antemma, 24 hour. Yahoo! Guai a chi tocca De Luca, è un nostro patrimonio, lo vuoi capire, è un nostro patrimonio, io spero che Renzi lo porti al governo, magari ce ne fossero come lui, altri 100, 1000 politici come lui, Milan, finalmente abbiamo trovato l'uomo giusto. De Luca, lo sceriffo, vabbè. Allora, questa è la segreteria telefonica, c'è stato un problema col traffico, ma la recupereremo alla prossima occasione. Siamo con Mariona Di Nolfi, direttore della Croce, e siamo con Veronica Gentili, Oh, c'è questa storia dei matrimoni gay. Mamma mia, adesso Mario Dinolfi con... No, dai, perché eravamo tutti tranquilli e pacifici stamattina. Infatti, cioè, Veronica, tu sei per i matrimoni gay? Io sono già... sbagli. No, che vuoi? Lo vedi, ma allora, a quest'ora interrompiamo le discussioni e le liti, quindi chiaramente sì, e Mario è contento, no? Mario è contentissimo, direttore della Croce Quotidiano, figurati, è la linea proprio chiaramente qui. Sì, per le trascrizioni, molto felice che la prefettura venga sgridata e richiamata all'ordine, perché non è problema suo impedire le trascrizioni dei matrimoni omosessuali. Io sono assolutamente favorevole e trovo che è vero che molti sindaci dovrebbero prendersi cura di tante altre cose prima, però en passant, visto che tanto non lo fanno, che insomma che questo venga fatto è una cosa in più. Ma poi se uno crede a queste battaglie civili, dire ci sono prima altre priorità, secondo me è anche sbagliato. Insomma, se uno crede che queste cose siano importanti, è giusto che rivendichi il fatto che siano importanti. Diciamo che la città di Roma ha vissuto un inverno abbastanza caldo, come dire, dal punto di vista delle tematiche, anche proprio locali. La cosa strana, la cosa strana è il TAR. Poi sentiremo ovviamente la parola di Mario Dinolfi. La cosa strana è il TAR. Il TAR non è che ha detto che i matrimoni gay vanno fatti, ha detto che i matrimoni gay non vanno fatti in Italia, ma a decidere non possono essere prefettura e ministro. Cioè, la solita roba del TAR, un colpo di qui e un colpo di là. Marione, dai, facci tuo predicozzo contro i matrimoni gay. Devo semplicemente dire che vi ricorderei, insomma, che per legge non si può in Italia, insomma, è tutto qui. A difesa della legge e della Costituzione della Repubblica Italiana. Questa quisquiglia della legge, mamma mia. È una questioncina, lo so, però insomma, se volete potete fare, insomma, che vale quello che dice Repubblica, ma tendenzialmente vale che quello che dice la Repubblica, cioè la democrazia. Bisogna votare in Parlamento la legge, non è che arrivi con la sentenza del TAR, che peraltro non dice che può fare, anzi dice il contrario. Esatto. Esiste. Questa è la stranezza, questa è certamente la stranezza. Bisognerebbe molto semplicemente ricordarsi che su queste questioni, come su tutte le questioni, le norme le fa il popolo italiano, cioè il Parlamento. Effettivamente c'è questa quisquiglia della legge, Veronica. Diciamo che le norme sono perennemente in divenire. Basta guardare oggi che cosa succede con la riforma costituzionale. Quindi insomma le leggi si modificano. No, diglielo nell'anniversario di Selma, dove le leggi non consentivano di marciare, ci sono stati dei neri che hanno marciato per ottenere infrangendo la legge. Tra l'altro, un attimo, la separazione tra Selma, cioè il diritto delle persone di colore e il diritto dei gay. Guardate che Martin Luther King faceva le marce, ma non perché voleva che i neri diventassero bianchi, molto semplicemente voleva i diritti che riguardavano le persone di colore. Insomma, questo è vero. Ma neanche in questo caso noi vogliamo che i gay diventino etero, vogliamo che si possano sposare. Le unioni omosessuali equiparata al matrimonio, che sono cose diverse. Ma questo però no, sai che anche Renzi, che vuol fare le unioni civili, dice non la voglio equiparare al matrimonio. Non la chiamerei matrimonio. Ivan Scalfarotto, che fa un'intervista a Repubblica, dice si chiama unione gay solo perché non possiamo chiamarlo matrimonio, in realtà è il matrimonio con un altro nome, ma è ovvio, basta leggere la norma. Beh, però non fanno neanche l'adozione, che è una delle peculiarità per il matrimonio. Niente, Veronica, noi la facciamo. Non ce la facciamo. Comunque, quando passerà una norma, poi discuteremo della norma. Che ma comunque tu sai, non decide Ignazio Marino. Tu sai, Veronica, che per essere qui devi comprare un paio di copie della croce oggi. Cioè, Oggi però è molto utile comprarla, perché parliamo di una risoluzione che si vota oggi all'Europarlamento. Oggi è utile. Perfetto. Allora adesso faccio un secondo blitz dal giornalaio e me ne faccio lasciare una copia tutti i giorni. Ma perché non l'avevi già fatto? Non ero ancora abbastanza ve l'ho detto. Come dire. Sono andato, ho fatto una rassegnona stampa, ma non ero ancora attrezzata. Non eri pronto. Vabbè. Allora, pronti con le palette, almeno questo. C'è da dare un voto da 0 a 10, come a scuola. Il voto è da dare all'ugola di Gasparri. Forza, Gasparri, che canta Radio Rock, credo. Sì. Siamo col senatore Gasparri, che è un rockettaro in realtà. Che gli fanno cantare? Vediamo come se la cava. Senti un po', Dire cose bellissime alzando. Dai, Battisti. Era un picchiere in testa. Vieni a cantare te. Forte no. e potresti ripartire. Ma come canta? Certamente non volare, ma viaggiare. Arriviamo al ritornello, senatore. Sì, viaggiare. A Gaspar. Evitando le buche più dure. Mamma mia, ragazzi. Senza per questo cadere nelle tue paure. Male che c'è dietro una gruppi che... senza fumo con amore. Dai, Veronica, un bel voto, da 0 a 10, no? Ma non è... Gaspar, no, da 0 a 10, come si indica pure. Sì, da 0 a... 1! 1 è pessimo, 1! Uno. Ma già è tanto 1 a Gasparri, perché era andato sotto lo 0 lui con tutto quello che ha combinato. Vabbè, 1, 1. Mariona Di Nolfi, tu che dici? Vabbè, questo non è Gasparri che canta, non è il mestiere. Ma dai, sei di incoraggiamento. Un serio. Però Mario, dici qual è il mestiere suo, perché non l'abbiamo ancora capito nessuno. Non so, secondo me è l'amministratore delegato di Twitter, Gasparri. È l'amministratore delegato occulto di Twitter. Ma secondo me c'è stata una specie di ottundimento da social network. Credo che sia una nuova malattia che si sta manifestando. Sì, lui ne è il primo esemplare. È un po' impazzito così. Appena vede Twitter impazzisce. Va bene, io mi devo fermare. Allora ringrazio Mario Di Nolfi e ricordo 334-3798-534. Tra poco è pronto. Ringrazio anche Veronica Gentili. Ti sei divertita? Molto. Allora ti svegliamo molto. Tutti i giorni alle 5:30. Ecco, mi raccomando. Mai dire molto. Sempre parchi. Sempre parchi, sempre parchi. Grazie. Tra 3 secondi, 2, 1. Chiamate a Di Nolfi. Pronto. E Mario Di Nolfi, sì. Addizione di merda. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, cari debosciati d'Italia, forza! Le vostre colazioni devono terminare perché bisogna lavorare, produrre, essere operosi. Noi si è attivi dalle 5. Avanti! Di che parleremo oggi? Di questa cosa delle riforme, certo, un po' di politica, un po' di attualità politica. Avremo ospite un esponente del Movimento 5 Stelle, cioè Daniele Toninelli. Avremo ospite il nostro Alessandro Giglioli, amico dell'Espresso, per... tra l'altro è in Spagna, credo, a seguire Podemos. O è appena stato, glielo chiederemo alle 8:15. Ma avremo ospite anche Antonio Ingroia. Ve lo ricordate Ingroia? Ora fa l'avvocato, è l'avvocato di quel camorrista pentito che è stato beccato con un permesso di 3 giorni a farsi dei selfie messi su Facebook. Vabbè, cioè, ci spiegherà anche perché da PM antimafia a avvocato dei mafiosi. Adesso fa l'avvocato e quindi difende chi vuole, per carità, non c'è un giudizio morale in questo. Ma sarà nostro ospite alle 8:40 Antonio Ingroia. E allora questo è il menù. Il menù, intanto andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 10 marzo, intanto i titoli e molti dei titoli sono declinati sul tema della Grecia. Il Sole 24 Ore, effetto Grecia sul QE, cioè il quantitative easing, tassi in calo, borse caute. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre La Stampa, lo scontro tra Germania e Grecia. Per Il Giornale c'è questo aspetto della Grecia. Guardate che è successo veramente. Il ministro della difesa greco ha detto: se non ci date gli aiuti, noi vi mandiamo gli immigrati, diamo permessi ai profughi temporanei e li facciamo uscire dalla Grecia. E potrebbero arrivare di tutto in Europa, anche terroristi dell'ISIS. Ha detto così il ministro della difesa greco. Tanto che Il Giornale titola in prima pagina: che carini questi comunisti, vi riempiremo di immigrati. Le riforme per il Corriere della Sera. La riforma divide Forza Italia, questo è il titolo del Corriere. Repubblica, riforme esplode Forza Italia, i ribelli votano sì. Il Messaggero, riforme al voto, caos Forza Italia. mentre per il Fatto Quotidiano pubblicità, Berlusconi piglia tutto, c'è uno studio sulla pubblicità sui mezzi di comunicazione. Per Libero, immigrati in cattedra e lezioni porno all'asilo, la riforma della scuola nell'era Renzi, è un caso che fa discutere in Friuli Venezia Giulia. Avvenire invece, il TAR, le nozze gay non si trascrivono, e voglio partire da qui. È l'ennesima sentenza del TAR. Quando è che aboliremo il TAR? Sarà sempre un giorno in ritardo. Questa è la mia posizione personale. Comunque, il TAR sulle trascrizioni delle nozze gay, solo i tribunali possono annullarle. Ieri che è successo? È successo che il TAR ha accolto un ricorso. Aventi oggetto i provvedimenti con i quali il prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni nel registro dello Stato civile presso il Comune di Roma. Il TAR ha detto in pratica che è vero, le nozze gay non si possono fare, celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso e conseguente matrimoni del genere non sono trascrivibili perché la legge in Italia non lo permette. Ma non è il ministro dell'interno, non è il prefetto, ma sono i giudici a dovere nel caso impedire questo. Quindi il TAR ha sottolineato, non è che ha sdoganato i matrimoni gay, ha detto che è stato fatto un vizio procedurale, evidentemente. Chi doveva cancellare queste trascrizioni non era certo il ministro dell'interno e quindi conseguentemente i prefetti. E per questi motivi sono stati accolti ricorsi che annullano l'annullamento del registro dei matrimoni gay. Insomma, il solito casino all'italiana. Il titolo di Repubblica è efficace, nozze gay, i prefetti non possono annullare. Questo è l'inghippo dal punto di vista tecnico. C'è anche un commento in prima pagina di Avvenire del direttore Marco Tarquinio. Il titolo è questo: in Italia ha più ragione chi sbaglia per primo? È questa la domanda molesta che aleggia da ieri sera. Ribadisce infatti il TAR del Lazio che i sindaci non possono e dunque non dovrebbero trascrivere matrimoni che qui tali non sono, come quelle tra persone dello stesso sesso o magari quelli poligamici, ma afferma anche che per riparare il malfatto in caso di trascrizione è sbagliato l'intervento rapido del prefetto armato della legge vigente, ci vuole una sentenza giudiziaria riparatrice. Tradotto, visti e considerati i tempi e condizioni della giustizia civile italiana, questo può significare che un atto fuori della legge verrebbe sanato anche con comodo tra costi sicuri e prevedibili lungaggini. È un incentivo alla violazione propagandistica delle norme? Un certo battage mediatico politico lo fa temere. Noi speriamo di no e attendiamo la parola al Consiglio del Consiglio di Stato. Questo è il commento del direttore di Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, su questa vicenda delle nozze gay. Ovviamente alla prossima puntata. A proposito di questioni di genere, diciamo così, ecco, c'è questa apertura di Libero che è anche però una mezza pagina su Repubblica, proprio sotto la vicenda di cronaca delle nozze gay. L'apertura di Libero è un po' da spiegare, è questa: immigrati in cattedra, ma soprattutto il secondo titolo, lezioni porno all'asilo. Succede in Friuli Venezia Giulia, come racconta anche Repubblica, appunto, a Trieste, all'asilo i bimbi si scambiano i vestiti per la parità di genere, ma i genitori insorgono. Gianpaolo Sarti racconta, pagina 22 di Repubblica, papà disegnato mentre stira una camicia e fa il casalingo. Ah, il casalingo. Chissà la Boldrini come sarà contenta. Mamma con una chiave inglese a fare l'idraulica. E se esiste il calciatore, perché non la calciatrice o la pompiera? I bimbi in asilo si stanno divertendo un mondo a scambiare i ruoli dei genitori, ma i grandi hanno cominciato a litigare, perché a maschietti, bambini dai 3 a 6 anni, si propone anche di travestirsi da principessa o strega cattiva e alle femminucce da cavaliere. La polemica esplode nelle scuole dell'infanzia del Friuli Venezia Giulia, dove sta per partire il progetto ludico educativo Pari o Dispari, il gioco del rispetto. L'attività, si legge nella documentazione, propone un cambiamento di atteggiamenti sul tema del genere e delle pari opportunità. Perché questa versione viene definita pornografia su Libero? perché Giordano Tedoldi, parlando dello stesso progetto a pagina 2, racconta, ovviamente i bambini, si legge nel documento di questo esperimento, per rinforzare le sensazioni, i bambini possono esplorare i corpi dei loro compagni, ascoltare il battito del cuore a vicenda o il respiro. Ovviamente possono riconoscere che ci sono anche differenze fisiche che li caratterizzano, in particolare nell'area genitale. Allora, scrive Libero, ora immaginatevi una classe d'asilo coi bambini che si auscultano, si esplorano, riconoscono le differenze genitali così spontaneamente, liberamente, per imposizione didattica, con la maestra o il maestro che li guarda dall'alto e sorveglia il gioco sfilando tra i banchi. È un gioco o una fantasia malata? Vabbè, scoppia la polemica, come succede in Italia, 2 giorni, poi ovviamente non se ne parlerà più, Comunque, scuole dell'infanzia nel mirino. Saltiamo davvero di palo in frasca e andiamo a Avvenire, dove viene pubblicata un'intervista rilasciata dal Papa in persona a un giornale piccolissimo, un giornale che è diretto da un sacerdote argentino, suo grande amico, padre José María Di Paolo, padre Pepe. E allora questa intervista a La Carcova News la trovate a pagina 5 di Avvenire. Dice tante cose interessanti. Il Papa, tra queste, che cosa è di più importante che dobbiamo trasmettere ai figli? Dice, risponde Papa Francesco, l'appartenenza a un focolare. L'appartenenza si dà con l'amore, con l'affetto, il tempo, prendendoli per mano, accompagnandoli, giocando con loro, dando loro quello di cui hanno bisogno in ogni momento per la loro crescita. E poi chiede l'intervistatore, padre Pepe, lei attorno a sé persone che non sono d'accordo con quello che fa e che dice? Sì, certo, risponde il Papa. E come ci si comporta con loro? Beh, ascoltarle a me non ha mai fatto male, ogni volta che lo ascoltate mi è sempre andata bene, perché anche se non sei d'accordo con loro, sempre ti danno qualcosa o ti mettono in una situazione che ti spinge a ripensare le tue posizioni. E poi c'è questa ultima domanda, secondo me straordinariamente da Papa Francesco. Sentite un po', sentiamo notizie che ci preoccupano, fanatici che la vogliono uccidere, lei non ha paura? E vabbè, dice Papa Francesco, la vita è nelle mani di Dio. Io ho detto al Signore, tu prenditi cura di me, ma se la tua volontà è che io muoia o che mi facciano qualcosa, ti chiedo solo un favore, che non mi faccia male, perché io sono molto fifone per il dolore fisico. Così il Papa parla a un giornale locale argentino, ma trovate l'intervista su Avvenire. Una buona notizia, si dice sempre non ci sono le buone notizie, una buona notizia, la storia che Pierangelo Sapegno racconta sulla stampa di Luigi Milana, direte voi, e chi è Luigi Milana? Luigi Milana è un 81enne di Padova, rimasto orfano, era andato a lavorare, non aveva potuto studiare da giovane, e quindi domani a 81 anni discuterà una tesi di laurea e prenderà una laurea. Sì, la sesta laurea. La sesta laurea. 6 lauree dell'81enne. Da giovane non ho potuto studiare. Domani si laureerà in scienze delle religioni. È la sesta laurea che prende Luigi Milana. Davvero ci vorrebbero applausi a scena aperta. La sua storia è raccontata sulla stampa a pagina 19. Ma veniamo al momento che ci fa pensare della giornata, l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, questo invece, altro che bella notizia. Rotterdam, tifosi del Feyenoord, la barcaccia, la piazza di Spagna. Roma, la beffa dei barbari. Dall'Olanda non sborseranno un solo euro. Il Messaggero, pagina 15, raccontano Lorenzo De Cicco e Laura Larcan che il Senato dell'Aia aveva detto al governo sarebbe bene dare dei soldi, ma il governo ha deciso che questo è solo un consiglio e il governo olandese non sborserà una lira. Certo, ci sono dei progetti privati di crowdfunding, avrebbero raccolto dei privati fino a 27.000 euro. Il dato di fatto è che le autorità olandesi non daranno un solo centesimo. Parole, parole di che, cazzo? Ma fatemi un piacere, dai, su! Milan, ma tu al mattino bevi? Lo diciamo sempre, al limite il bombardino che ci porta al nostro alpino Peter Vescapè, tutti i giorni copioso, ovviamente, tutti i giorni copioso. Allora, la politica, oggi è il giorno in cui si vota le riforme, il secondo voto sulle riforme, quella che porta all'abolizione del Senato, alla riscrittura del Senato e a tante altre cose. La questione è che i partiti sono spaccati, soprattutto Forza Italia. Il Corriere della Sera parla di voto con strada in discesa per Renzi. Perché? Perché si vota alla Camera, i numeri sono molto ampi e anche la minoranza del PD sembra abbastanza silenziata, tanto che nel retroscena di pagina 2 di Repubblica si racconta un Matteo Renzi che dice: o si vota o salta tutto, questo alla minoranza, ai bersaniani, no a modifiche, altrimenti salta tutto. E in qualche modo il Fatto Quotidiano fa una pagina per anche così irridere i passi avanti e i passi indietro, tipo il passo di tango dei bersaniani o comunque della minoranza PD. Eccolo qua, qui lo voto e qui lo nego, da Bersani a Fassina il fuoco e poi l'estintore. Giampiero Calaparra accoglie tutte le dichiarazioni in questi mesi in cui sembravano i bersaniani mettere a ferro e fuoco il rischio di non approvare le riforme, e poi invece alla prova del voto, e vedremo anche oggi, pare che tutti i mal di pancia rientreranno. Più complicati sono i mal di pancia all'interno di Forza Italia. Racconta Amedeo La Mattina a pagina 5 della Stampa: Forza Italia si spacca in tre, Verdini guida il sì, quindi Verdini vorrebbe votare il sì alle riforme, ci sono altri che però sono per il no. Pare e si racconta che molti, una settantina di parlamentari, potrebbero esibire dei certificati medici per dire non vado in aula, non avere l'imbarazzo di votare no come chiede Berlusconi. Verdini invece è pronta a guidare la fronte del sì, clamoroso voltafaccia sarebbe di Verdini nei confronti di Berlusconi. Rotondi annuncia in un'intervista a Repubblica: voterò sì alle riforme e faccio così un favore a Berlusconi. Ma come un favore? Non la prenderà benissimo, chiede Repubblica a Rotondi. E ho fatto sciopero per 2 anni, non ho mai parlato alla Camera, ho assecondato una quantità seriale di svolte, un po' per affetto verso Silvio, un po' per pigrizia. Oggi non voglio essere presuntuoso, ma Silvio ha bisogno del mio aiuto. E sì, e come lo aiuterà? Si sta facendo sfilare dal piede la palla del gol, è caduto nella trappola di una provocazione, io lo farò notare. Il gol mancato sono proprio le riforme, Berlusconi è il bipolarismo d'Italia. Questo Rotondi, che col suo solito modo politichese, racconta che voterà sì alle riforme. Comunque pare che Berlusconi abbia detto ai suoi, racconta sempre Amedeo La Mattina, pagina 5 della Stampa: mentre io attendo la sentenza della Cassazione, voi mi tradite? Mentre io rischio ancora una volta la libertà personale, il partito si divide e mi abbandona? Sarebbe una coltellata alla schiena. Così Berlusconi, nel giorno appunto in cui la Cassazione dalle 10.30 di oggi deciderà sul processo Ruby. C'è stato nel processo Ruby, oggi inizia l'udienza sul filone principale, Berlusconi accusato di prostituzione minorile e concussione dopo che è stato condannato in primo grado, assolto in appello visto che non è provato che conoscesse l'età vera di Ruby. Oggi c'è la Cassazione, o inizia la Cassazione, non è che ci sarà la sentenza oggi stesso. Però, racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera tutti i passaggi a pagina 11 di cosa si aspetta dalla Cassazione, che potrà confermare definitivamente l'assoluzione oppure annullare l'assoluzione e quindi ordinare un nuovo appello, quindi far rifare il processo d'appello, sia per il reato di prostituzione minorile sia per il reato di concussione. E pare, raccontano tutti, che Berlusconi abbia in testa solo questo, cioè pensa solo alla Cassazione. In realtà proprio la questione delle riforme sia, secondo il Corriere, il suo 200° pensiero, proprio perché il pensiero principale è quello della Cassazione e la sua questione giudiziaria. Saltiamo al Movimento 5 Stelle. Beh, è abbastanza incredibile, si ripete una sorta di miracolo. Dopo l'intervista di Emanuele Buzzi al Corriere a Beppe Grillo, Emanuele Buzzi intervista Gianroberto Casaleggio. Quindi nel giro di una settimana, prima Beppe Grillo, poi Casaleggio, si sottopongono a domande di un giornalista, lo stesso giornalista peraltro. Pagina 9 del Corriere: io e Grillo restiamo in prima linea, dialogo in aula o deriva di destra, rilancia a gran voce, come aveva fatto Grillo, il reddito di cittadinanza. Gianroberto Casaleggio dice: togliere dalla disperazione e dalla povertà milioni di poveri è un obbligo morale e non è neppure qualcosa di nuovo. Il reddito di cittadinanza esiste nella maggior parte dei paesi civili, in Europa solo Grecia e Ungheria non ne dispongono. E poi c'è questo principio per cui chi rifiuta per tre volte un lavoro perde questo reddito. Se non ci fosse, mi spiacerebbe a livello umano e sociale vedere le file di famiglia, la Caritas per un pasto aumentare giorno per giorno o anziani rovistare nei rifiuti dei mercati generali, mi fa stringere il cuore. E ancora aggiunge Casaleggio: dove sono scomparsi gli ammortizzatori sociali? Di solito si è imposta l'ultradestra a partire dal nazismo. In Grecia, se fallirà Tsipras, verrà Alba Dorata. È questo che vogliamo? E poi parla anche del Movimento 5 Stelle, dice: prima o poi succederà che Grillo e io avremo un ruolo più defilato, per ora non è previsto. Alla domanda: ci sono scelte nella storia del movimento che lei non ripeterebbe? Casaleggio risponde: no. E infine, un ex del movimento, Battista, ha invitato gli altri ex al Senato a dar vita a un gruppo e entrare nel governo. Lei che ne pensa? Ne risponderà agli elettori. Questa è la risposta di Gianroberto Casaleggio. L'intervista completa la trovate a pagina 9 del Corriere della Sera. Intanto Tosi ha altre 24 ore, eh? Altre 24 ore di vita nella Lega per Flavio Tosi. Prima l'ho twittata in maniera veramente ironica, molto, molto macabra: può scegliere tra iniezione letale o impiccagione. 24 ore, vabbè, no, non è proprio così. Comunque saluto il nostro Mauro Meazza. Maurino, buongiorno, a proposito di iniezione letale o di impiccagione? No, per carità, pensavo che lunga vita preso al Meazza. No, siccome sai che diamo adesso il martedì, diamo anche questi capolavori della letteratura horror, presentiamo, certo, in edicola. Era quello che mi ha fatto prendere. Se volessi legarti a questa circostanza. No, tra l'altro, oggi è martedì, dopo il lunedì oggi è martedì. Effettivamente succede. Oggi che è martedì presentiamo in edicola la nuova rivista mensile Norme e Tributi Mese, che è una rivista di dottrina e di analisi, di approfondimento di tutte le questioni fiscali, una dottrina, rivista diciamo di riflessione, di analisi appunto, e la trovate in edicola con il Sole 24 Ore. Poi avevo delle domande da farti, ma nel QE, secondo te, nel quantitative easing, sì, possono essere acquistati titoli greci? Accidenti. Facciamo partire il tempo, non lo sai, va bene, non importa. Ti dico che oggi su Sole 24 Ore, tra le varie spiegazioni del quantitative easing che è partito ieri, trovi anche una serie di domande e risposte come questa. C'è la risposta. La risposta è in linea di principio sì, ma già ne sono stati comprati parecchi. Grazie, prof. Quindi questo per evitarti anche di fronte alla nazione un momento di imbarazzo, le domande e risposte curate da Maximiliano Cellino, ma molto molto altro oggi sul quantitative easing, sul Sole 24 Ore. E poi ti voglio segnalare una sentenza importante di Cartel, che ha vinto contro quei contraffattori cinesi in Cina. Mm-hmm. Quindi accidenti. È una sentenza molto importante, perché sai che le aziende che operano colà possono avere spesso dei problemi. E poi, sei pronto per la fattura elettronica? Prontissimo. Stai mentendo spudoratamente. Oh, vabbè. No. Comunque domani con il Sole 24 Ore ti daremo uno speciale di 16 pagine che ti spiega la fattura elettronica, non so, naturalmente a tutti i lettori, anche se tu ci stai particolarmente a cuore, anche un po' come benchmark, come si dice, cioè come riferimento obbligato. E poi oggi è martedì, giusto? Condominio. Dopo lunedì? Sì, certo. Condominio, bravissimo. E allora, oltre a una serie di anticipazioni sul risparmio energetico, cambierà ancora le norme sul risparmio energetico degli edifici, lo apprendete sul Sole 24 Ore di oggi, anche una serie di chiarimenti su uno dei motivi di lite più ricorrenti, le parti comuni. Le parti comuni sono sempre uno splendido argomento per tutte le assemblee di difensori, sì. le scale, le fioriere, il portierato, sono tutte cose che turbano i nostri sonni durante e anche le nostre serate. Fanno vedere la vera natura degli italiani. Talvolta è vero. Sì. Tutto questo e molto altro, naturalmente, oggi sul Sole 24 Ore e poi sulla pagina di Condominio. Per me, la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca! Questo è uno dei migliori, eh? Uno dei migliori, c'è forse di meglio, ma è nella mia top 3, se non top, forse top 5, top 3, forse entra nelle prime 3, forse entra una nelle prime 3, caro ascoltatore. Va bene, mandatecela se volete, c'è il numero anche della segreteria telefonica che qui in questo momento non ho, e quindi, ma voi lo trovate. No, com'è? 0246524492. Ho azzeccato? Sì, dovrebbe essere questo. Va bene, allora, a proposito di Grecia, sapete che ha detto il simpaticissimo ministro della difesa Panos Kamenos? Vabbè, lui è, tenete conto che è leader della destra nazionalista. Secondo quanto ha riferito il sito tedesco The Local, Kamenos ha detto questo: l'Europa non ci aiuta? La riempiremo di immigrati. State attenti, perché se non ci aiutate, allora daremo ai migranti i documenti per andare a Berlino e in Europa. E se tra i migranti ci fossero anche dei jihadisti dell'ISIS, la responsabilità sarà dell'Europa. Ma vi rendete conto? Questo su tutti i giornali, ve li spediamo terroristi inclusi, titolo di Repubblica, questo il ministro alla difesa greco. Guardate qua, Libero, altro che Unione, la minaccia della Grecia, vi riempiamo di immigrati. Il titolo del giornale, addirittura è il titolo di prima pagina, com'è che faceva più il giornale? Che carini questi comunisti, vi riempiremo di immigrati, il governo Tsipras minaccia di dare passaporti europei clandestini e spedirci qui anche ci fossero dei terroristi. Eccolo qua il giornale, vi portiamo il jihad in casa. Vabbè, veramente una dichiarazione che mette Atene in una luce molto simpatica. A proposito di luci e riflettori, tra l'altro è interessante leggere quello che scrive Maria Serena Natale sul Corriere della Sera pagina 3, cioè che Tsipras si sarebbe un po' arrabbiato per il presenzialismo di Varoufakis, colui che è un misto tra Checco Zalone, Bruce Willis, Marlon Brando, Zola, Franco Trentalance. Avete presente il ministro delle finanze greco che gira un po' con la camicia sempre di fuori, un po' sgarruppato, con questo finto povero, in realtà un po' trasandato, va senza la giacca e senza la cravatta. Ecco, comincia a far arrabbiare anche Tsipras questo super attivismo di Varoufakis. Ora Tsipras chiede silenzio, il caso del super ministro Varoufakis, considerato in Germania anche un'icona sexy. tutti ormai sanno in Grecia a che ora va a fare jogging, come passa il weekend, è un idolo e gli idoli non hanno il posto fisso. Così Tsipras pare arrabbiato nei confronti di Varoufakis. Vabbè, torniamo alle cose italiane. Vi segnalo sul Fatto Quotidiano due pagine di Carlo Tecce, molto interessanti, perché raccontano i numeri della pubblicità in Italia. La legge dei pubblicitari fa sempre vincere il biscione, cioè Mediaset. I 100 maggiori investitori preferiscono Mediaset alla Rai. Viale Mazzini riesce a raccogliere meno di un quarto dei soldi raccolti da Cologno Monzese. Per capire chi comanda in Italia, scrive Tecce, vanno rintracciati miliardi di euro di pubblicità. Osservato il taglio ai costi di Eni e Enel, le ambizioni di Poste, il dominio di Mediaset che vanta clienti in esclusiva. La raccolta 2014 flette a 6,2 miliardi di euro, 2,5% in meno. I quotidiani sprofondano a 810 milioni di euro raccolti, meno 9,7%. Internet fa un passettino senza scattare e rastrella 474 milioni. La televisione spadroneggia con 3,5 miliardi di euro e smarrisce un'inezia, solo un meno 0,5%. Questi numeri generali e poi analizzati in due pagine con tanto di grafici, con tanto di cifre, dove la pubblicità va. E va soprattutto su Mediaset, questo almeno certifica il Fatto Quotidiano. Sono i dati elaborati da Nielsen che riguardano i 100 maggiori investitori italiani e li trovate spiegati appunto sul Fatto. A proposito di cose estere, beh, questa non è una bella notizia. Repubblica dedica due pagine, firmate da Jason Burke, che è un esperto di antiterrorismo, ha vissuto in Pakistan e in Afghanistan, ha scritto in Italia anche un libro tradotto dal titolo Al-Qaeda, la vera storia. E Jason Burke scrive su Repubblica, viene tradotto e pubblicato questo pezzo, che Boko Haram, cioè i fanatici che si ispirano a un Islam puro in Nigeria, si sono uniti di fatto con la battaglia dell'ISIS. Svolta di Boko Haram, noi con il califfo, il network del terrore che fa tremare il mondo. Questa è la notizia. Jason Burke racconta come il leader dello Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi si sia guadagnato un nuovo seguace. In un video pubblicato su un noto sito estremista, Abu Bakr Shekau, capo del movimento integralista nigeriano Boko Haram, nel fine settimana ha giurato fedeltà al califfo dei musulmani, impegnandosi ad ascoltarlo e seguirlo in tempi di difficoltà e prosperità, di ristrettezze e di agi. Non è certo il primo giuramento di fedeltà che arriva dal Baghdadi, ma questo è un giuramento che certamente fa scalpore e fa notizia, perché Boko Haram sono appunto, se, quelli di Boko Haram sono dei fanatici, sono quelli che hanno rapito anche varie persone in Nigeria, e quindi ecco che fa certamente fa scalpore e fa preoccupare questa decisione. Va bene, c'è molto di che cosa anche del libro di Mario Giordano che è uscito, tutti i giornali ne parlano, si intitola Pesce Cani, ma sarà nostro ospite Giordano prima o poi, cercheremo di averlo. È uscito un nuovo libro che denuncia vari scandali. Vi segnalo solo che Caprotti, Bernardo Caprotti, il patron di Esselunga, 89 anni, ha vinto l'ennesima causa contro i figli. Racconta il Corriere della Sera, pagina 33, un nuovo capitolo nella saga, come protagonista il patron di Esselunga. Ha ottenuto ragione nell'azione giudiziaria civile promossa dai figli. È stato giudicato improcedibile il ricorso dei figli nei confronti del padre. Quindi un'altra vittoria per il patron di Esselunga. Un'altra vittoria per la Juve, che merita oggi questo alla Gazzetta. È tanto tempo che non lo facevo, ma eccolo qua. E siamo alla carta costa, velocemente, una pagina di Repubblica sull'asta per i selfie, l'asta per i selfie, l'asta per i selfie! Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8:20, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, parlare di politica oggi vuol dire parlare di questo voto finale che c'è alla Camera sulle riforme. È un voto finale al quale i partiti arrivano un po' in maniera diversa. È quello il voto, sapete, quello in cui al Senato, ricordate, dopo tante polemiche, tutte le opposizioni abbandonarono l'aula e si votò di notte, votarono di fatto solo i partiti di maggioranza. Allora, il PD sembra abbastanza unito, vabbè, forse Fassina, Civati usciranno dall'aula, come abbiamo sentito, forse qualcuno manifesterà qualche mal di pancia. Forza Italia invece pare lacerata, come in tante occasioni recenti, con Berlusconi che in realtà oggi ha un solo pensiero, il processo di Cassazione che inizia per il caso Ruby, e dice ai suoi: ma come, io rischio ancora la mia libertà e voi mi votate contro? Sarebbe una pugnalata alla schiena. Questo è il retroscena legato a Berlusconi. Mentre invece il Movimento 5 Stelle non andrà in aula. Voglio chiedere subito il perché a Danilo Toninelli, che è deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, come mai voi non vi presentate? Buongiorno Milan e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io penso che ci sia un qualche cosa che ci contraddistingue, questo qualche cosa sia la coerenza. In questi mesi, Milano, abbiamo cercato veramente, ci siamo fisicamente seduti al tavolo con il Partito Democratico e abbiamo fatto proposte come l'abolizione dei vitalizi condannati, il dimezzamento dei parlamentari e dei loro stipendi, più potere al Parlamento, meno al governo, referendum propositivi, tutte proposte bocciate, che davano più potere ai cittadini e meno quindi una leadership assoluta come vorrebbe Renzi, ce le hanno bocciate tutte. Ci hanno fatto lavorare di notte, non perché non ci piace, non vogliamo lavorare di notte, perché io mi sono permesso in aula di dire che di notte ci sono i ladri. È impensabile riformare la Costituzione, addirittura 40 dei 139 articoli della Costituzione di notte. Notte, un giorno in una notte. A questo punto ci hanno detto di no, ci hanno obbligato, era diventato un votificio perché ci avevano anche limitato i tempi, non potevamo più intervenire. Sì. A questo punto tanto vale non marcare una differenza, cioè qual è il segno politico di non presentarsi in aula, perché politicamente passerà tutto. Ha sentito il ministro Boschi, dice è un'opportunità perduta da parte del Movimento 5 Stelle. Io le ribalto la domanda, qual è il significato per noi di andare in aula a aspettare il pulsante rosso? Abbiamo fatto di tutto per migliorarlo, ci hanno detto di no su tutti i fronti, anche cose che chiedono i cittadini. Ma pensi lei che ci sono persone condannate che oggi ricevono i vitalizi? Ma è una cosa inaccettabile. Ah, come no, ce ne siamo occupati, abbiamo fatto due puntate su questo. Non ha un pasto normale proteico ogni due giorni, quindi noi diciamo no, ve la votate voi. E anzi, mi permetto di dire che c'è una certa viltà, c'è una certa codardia da parte delle altre forze politiche, escluso Forza Italia, perché lei meglio di me sa che Forza Italia ha scritto insieme a Renzi nel patto del Nazareno questa riforma. Oggi loro entreranno, voteranno no, va bene. Ma quello che non accetto, a mio parere, è che forze come la Lega, i SEL, che dicono di aver portato avanti, e in parte l'hanno anche fatto, una battaglia in difesa della Costituzione con noi, oggi sono votano. Usciti il 12 febbraio, per i motivi che le ho detto, e oggi torno per pigiare inutilmente un bottone. Sì, poi lei dice Forza Italia voterà no, questo bisognerà vedere. Sì, si parla di molti che addirittura presenteranno certificati medici pur di non andare. Rotondi, per esempio, che viene ascritto al gruppo comunque di Forza Italia, dice oggi su Repubblica voterò sì. Comunque, fatemi salutare Alessandro Giglioli dell'Espresso. Giglioli, buongiorno, ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno. Alessandro, ciao, col quale spesso discuto su questo tema, perché io sostengo, ma non è che sostengo perché in maniera peregrina, cioè che ai cittadini quello che è le riforme costituzionali interessa poco o nulla, ma il dato di fatto un po' è così, Giglioli. Penso che se tu vai in metropolitana o su un autobus a Roma a chiedere, ti dicono le riforme, ti guardano con degli sguardi spaesati. Sì, vero. Il compito della politica, il compito di noi giornalisti, il compito di chiunque svolga professioni legate alla politica direttamente o indirettamente dovrebbe essere quello di creare un'opinione pubblica, perché questa riforma, di creare un'opinione pubblica, di creare anche un blocco sociale, di articolare una forma di consapevolezza, dovrebbe essere il nostro mestiere, se pensiamo che oltre a fare comunicazione appunto facciamo opinione pubblica. Il problema che dici tu è assolutamente vero, non è che nego questo, è ovvio, in tempo di crisi, di recessione, in tempo di disoccupazione giovanile al 40%, uno dice ma fate le riforme che volete, senza poi però fare il passaggio successivo, ahimè, che è quello di maggiore consapevolezza rispetto al fatto che proprio riforme come queste, come questa del Senato, nel suo combinato disposto con l'Italicum, allontanando i cittadini dalla rappresentanza, creando un fossato, un recinto fra chi decide, i decisori e i cittadini, poi è il strumento migliore per arrivare a decisioni politiche senza, e anche economiche, senza la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini. Pensa soltanto al pareggio di bilancio in Costituzione, che hanno fatto in Italia praticamente di nascosto e ha inciso moltissimo poi nelle nostre vite concrete, sul Italia al welfare, sull'austerity. Quindi c'è un collegamento che, mi rendo conto, può non essere immediato se uno non si informa di politica, ma c'è un collegamento molto stretto. D'altro canto, non è un caso, dice, tra quello che approvano e quello che è la vita di tutti i cittadini. Ma non è un caso se la Troica, la BCE, il Fondo Monetario da tempo dicono che le costituzioni vanno cambiate in Europa. Vanno cambiate nel senso che dicono loro, cioè vanno cambiate in modo da evitare una partecipazione dei cittadini, da togliere il welfare, da creare un potere slegato dei cittadini che può fare un po' quello che vuole, da perdere la sovranità dei cittadini, aumentare la sovranità dei tecnici. È però esattamente quello che io vorrei chiedere a Toninelli. Allora, i punti che ha detto voi avete portato avanti e hanno tutti, sono stati bocciati, e vi hanno spinto a dire vabbè, ma allora votatevela voi questa riforma. Ma di questa riforma, perché poi sa, in Parlamento valgono le maggioranze e i numeri, insomma in democrazia è così, chi ha più numeri sceglie un po', discute, ma poi sceglie quello che vuole. Quali sono i tre punti, faccia capire agli ascoltatori, che di questa riforma proprio non vi piacciono, di queste riforme costituzionali non van bene? Guardi, il primo punto in assoluto è che diceva il dottor Giglio pochi istanti fa, insieme all'Italicum si crea un accentramento di potere assoluto. Già oggi lei sa meglio di me che non siamo in una vera e propria democrazia parlamentare, quindi il Parlamento che rappresenta il popolo ne prende le istanze, siamo in una sorta di liderocrazia. Con quel passaggio si crea veramente una dittatura del capo, ma non è un giudizio politico, è un giudizio tecnico. Chi vince le elezioni si ovviamente che diventa capo del governo e si mangia al Parlamento, unico Parlamento, non c'è più il Senato a creare un bilanciamento di poteri. Beh, ma seconda cosa, non era una cosa positiva, qualcuno lo voleva addirittura togliere del tutto, neanche lasciare 100 senatori, no? Allora, a quel punto lì io le dico, come una semibattuta, era meglio abolire un Senato totalmente inutile, che praticamente Renzi a gennaio disse che avrebbe risparmiato 1 miliardo di euro con le riforme. La Ragioneria dello Stato ha detto che ne risparmia 36 milioni. Per farle capire quanta propaganda questo, chiamiamolo direttore marketing della BCE e della Troica, sta portando avanti in Italia. Beh, Renzi è il direttore marketing della BCE, secondo me. Job Act, decreto Poletti, sblocca Italia, sono tutte limitazioni della democrazia, come la Troica, come ha detto giustamente il dottor Giglioli, come la Troica chiede ai paesi 28 dell'Unione Europea. Ma la cosa più sconcertante, mi fa quasi ridere, di queste riforme, è che i senatori, sa chi diventa? La categoria di politici in assoluto più inquisita per reati di corruzione e di truffa in generale. I consiglieri regionali. Cioè, capisce lei? Con l'immunità parlamentare. Vabbè, questa è una discussione che bisogna vedere. L'immunità parlamentare. Beh, bisogna capire se l'immunità parlamentare c'è per reati commessi in quanto senatore o futuro senatore, o se anche si acquisisce un'immunità parlamentare se uno fa un reato in quanto consigliere regionale. Sì, però capisce la difficoltà del discernere in che ambito aveva sul vestito da consigliere o aveva sull'abito da senatore. Beh, in alcuni casi si può capire, però certo è complicato. Io però le vorrei chiedere questo: voi del Movimento 5 Stelle state portando avanti una battaglia che ho capito a metà, che è quella definita anche su Twitter con un hashtag Casta Crociere, cioè gli ex deputati, gli ex parlamentari, cari ascoltatori, hanno diritto a dei fondi, a dei soldi per degli spostamenti in tutta Italia, non so, vengono chiamati a fare convegni, vengono chiamati nelle scuole a spiegare la Costituzione. A quanto ammonta, Toninelli, questo fondo? È un fondo così senza fine, oppure c'è un limite a queste spese? Guardi, questa è una battaglia molto datata che noi stiamo portando avanti praticamente dall'aprile del 2013, quando siamo entrati. Tutti gli ex parlamentari, gli ex deputati, sì, hanno un fondo di 3.200 euro l'anno per gli spostamenti da casa a Roma. Sì. Ovviamente non ci sono grandi controlli, perché magari non vanno a Roma ad esercitare funzioni istituzionali, ma vengono a Roma per farsi affari propri, o addirittura noi abbiamo sospettato, perché abbiamo fatto una forte battaglia contro la presenza di lobbisti in Parlamento, chi ci dice che questi signori che sono presenti in quelle aule limitrofe quando si fa la stabilità, la vecchia finanziaria, quindi sono i soldoni da mettere a destra e a sinistra, non entrano in Parlamento a portare gli interessi di qualche società, di qualche lobby. Vabbè, la lobby peraltro è una cosa, vabbè, che forse andrebbe regolamentata, se fosse regolata, regolata come il Parlamento Europeo sarebbe certamente meglio di questa. E cosa vorreste fare voi? Cioè, non va bene questi 3.200 euro non... Ma, dottor Milan, questi signori hanno vitalizi, sì, pensioni d'oro, e noi dovremmo pagare il 2014 900.000 euro per aiutare i spostamenti, per pagare i spostamenti di questi signori. Allora sa cosa faccio? Allora sa cosa faccio? Le faccio sentire a lei e a Giglioli Jerry White, lei sa che è Jerry White, Gerardo Bianco, è il presidente di tutti gli ex parlamentari. Sentite qui al microfono, l'ha raggiunto ieri Elisabetta Fusconi, sentite che ha detto Gerardo Bianco sulla questione di stipendi, vitalizi, spostamenti. Il vitalizio medio di un parlamentare dei 3.500 euro sono persone che hanno superato i 70 anni, domani devo andare a Napoli, il 25 mi hanno chiesto di andare a Cosenza, vero? Dovrei praticamente andare alla mensa di Sant'Eustachio, vero, per soddisfare le richieste. Con 3.500 euro una persona che, insomma, come dire, ha oltre 70 anni vive decentemente, punto, non può sottrarre nemmeno mezzo euro per fare le cose per cui pure è richiesto. Hai capito? Giglioli, Toninelli, alla mensa di Sant'Eustachio, no, non lo vedremo mai. Gerardo Bianco, meno male, Giglioli, non lo vedremo mai. Non vogliamo augurare. Vediamo sempre più persone comuni, in realtà. Vediamo sempre più ex ceto medio proletarizzato alla mensa di Sant'Eustachio, così come in altre mense. Guarda, il problema della casta è che, di cui in Italia si parla da molto tempo, e secondo me che abbiamo un pochino frainteso noi in Italia il senso della parola casta. Cioè, la casta non è soltanto quel ceto politico, lo è anche il ceto politico degli stessi, ma la casta è l'intreccio fra tutti coloro che costituiscono elite in questo paese, che sono politici, grossi imprenditori, grossi finanzieri che hanno distrutto l'economia di questo paese dell'Europa, molti giornalisti di altissimo reddito. Quando negli Stati Uniti, a New York, c'è stata la cosiddetta rivolta del 99% contro l'1%, loro avevano molto chiaro il concetto di casta. Io vengo tra l'altro adesso da un viaggio abbastanza lungo in Spagna, dove ho studiato la caratteristica di Podemos. Una delle differenze più forti fra Podemos e il Movimento 5 Stelle, ci sono tratti in comune ma ci sono anche differenze, è che Podemos non intende per casta soltanto il ceto politico degli sprechi, ma intende, secondo me, più correttamente per casta l'intreccio fra ceto politico e i loro azionisti, e i loro mandanti, che sono poi quelli che in Italia chiamiamo un po' superficialmente poteri forti, che li semplicemente chiamano elite e che, secondo me, sì, rappresentano coloro che più sono casta, il 10% di popolazione più ricca che ogni anno detiene più ricchezza rispetto al 90% di popolazione meno ricca. Qui c'è da lavorare. Toninelli, ha capito, nessuno vuole augurare a nessuno di finire alla fila della mensa di Sant'Eustachio, ma dice Gerardo Bianco 3.200 euro, neanche un centesimo si può togliere, si vive dignitosamente così, un uomo di 70 anni, un centesimo in meno e non ce la si fa, capito? Guardi, io penso che queste persone abbiano perso totalmente collegamento con la realtà. Io non evito di rispondere perché mi piacerebbe che magari un ascoltatore dopo la sua trasmissione, Milan, possa rispondere al posto mio e dirgli magari che queste persone meritano dei calci del sedere a dire queste parole. Vabbè, insomma, qualcosa ci ha detto anche lei. Non so, Giglioli, che volevi concludere? Fare la colletta per Gerardo Bianco? No, speriamo di no. Io, a me mancano una ventina, a te di più, a Toninelli di più. Io ma io in pensione non ci andrò mai. Anni di arrivare così, do il permesso agli amici di finirmi, ecco, di dire che devo andare alla mensa guadagnando 3.500 euro netti al mese. Do il permesso agli amici di dichiararmi morto. 3.200, non esagerare, 3.200. E poi credo che lui abbia anche una pensione universitaria. Non credo, sì, ma questo non lo so, comunque il vitalizio è questo, sì, e sì. Non togliamogli neanche un centesimo, sennò deve finire alla mensa di Sant'Eustachio per soddisfare le esigenze quotidiane. Vada a vedere chi sono quelli alla mensa di Sant'Eustachio, che sono il prodotto della classe politica di cui lui era parte. Allora, io ringrazio Danilo Toninelli, vabbè, vedremo questa giornata politica come andrà, soprattutto la curiosità maggiore è su Forza Italia, perché chiaramente il Movimento Movimento 5 Stelle non entrerà in aula, e si sa, il PD più o meno è compatto, Forza Italia certamente si intreccia anche con le vicende giudiziarie di Berlusconi. Grazie a Danilo Toninelli, grazie a Alessandro Giglioli dell'Espresso. Dopo la pubblicità invece avremo ospite Antonio Ingroia, ve lo ricordate Antonio Ingroia, il PM antimafia, poi si è buttato in politica, non è andata bene, oggi fa l'avvocato ed è l'avvocato difensore, tra gli altri, di quel camorrista pentito che è finito in su Facebook per un permesso premio di 3 giorni, è finito con tanti selfie, con tante polemiche, con tanti like anche su Facebook, e Ingroia è il suo difensore, cioè quindi da PM antimafia a difensore di un camorrista. Tra poco 24 mattino. Vabbè, vi lascio, vi risparmio i messaggi al 349-238-6666 dopo che abbiamo sentito Gerardo Bianco, presidente degli ex parlamentari, a dire con 3.200 euro di vitalizio mi togliete anche un euro e finisco a fare la fila alla mensa di Sant'Eustachio per le esigenze. Chi mi ha fatto imbestialire, chi racconta, mio padre è morto pensionato con sacrifici enormi, mio padre ha 80 anni, c'ha 700 euro di pensione. Vabbè, è così, certo, un po' di distacco dalla realtà c'è, un leggero distacco dalla realtà di certi personaggi c'è. Comunque, vogliamo parlare, poi magari c'è qualche spazio per qualche telefonato su questo, vogliamo parlare invece di un fatto di cronaca che ha fatto arrabbiare alcuni, perché è successo che c'è stato un permesso premio ad Augusto Latorre, che è stato per anni capo indiscusso di un clan che spadroneggiava Mondragone, provincia di Caserta, poi si è pentito, e questo boss ha avuto un permesso premio per un fine settimana di 3 giorni che è finito su Facebook con foto, like, eccetera. Per carità, questo boss adesso è ritornato in carcere, il Facebook credo sia stato tolto. Questa esibizione anche di foto su Facebook ci ha incuriosito, però, in tutta questa vicenda il fatto che il difensore, l'avvocato difensore di questa persona sia Antonio Ingroia, che ricordiamo tutti. Ingroia, buongiorno, come sta? Buongiorno a voi, bene, allora, grazie. Allora, intanto questo permesso premio, sai che quando capitano la gente dice ma com'è possibile dare a un camorrista al 41 bis un permesso premio? È stato un po' esagerato forse, oppure va bene? No, direi proprio di no, perché non è un camorrista, ma un ex camorrista, la differenza non ha da poco. E non è proprio perché non è più un camorrista, un ex camorrista, non è neanche a 41 bis. Ovviamente chi sta a 41 bis non può avere nessuno. Sì, certo, l'ha fatto il 41 bis, credo. Esatto, l'ha fatto per molti anni, fino a quando appunto ha iniziato a collaborare, la sua collaborazione è stata ritenuta attendibile. E la verità è, e lo capisco, è che quando si parla di pentiti diventa difficile dimenticare che, oltre a essere cosiddetti pentiti, poi sarebbe meglio dire collaboratori di giustizia, sì, sono sempre stati criminali con decine di omicidi sulle spalle. Una vecchia faccenda di cui mi occupavo da pubblico ministero e continuo a occuparmi oggi, certo, anche l'avvocato. Molti hanno proprio notato, lei ha già spiegato perché, facendo l'avvocato, lei ovviamente tutti hanno diritto a un avvocato, ha spiegato bene come non ci sia contrasto tra la sua passata vita, diciamo, da PM antimafia a fare l'avvocato di uno che, seppure pentito, è un criminale, è stato un criminale per tanti anni. Non è poca la differenza, No, questo sì, ma cioè nel senso che lei difenderebbe un camorrista attualmente camorrista? Ovviamente no. No. Io l'ho detto nello stesso momento in cui ho fatto il giuramento, attirandomi anche qualche gli strali della Camera Penale, dicendo che ogni imputato ha diritto al difensore, e ovviamente è così. È chiaro che per la mia storia, io l'ho detto fin dall'inizio, non difenderei mai chi è direttamente accusato di fatti di... Quindi ha diritto a un difensore, un camorrista, ma non io, cioè, esatto, lo faccio un altro. Di sì oppure di no, chi chiede la mia difesa. È anche accaduto che qualcuno accusato di fatti di mafia mi abbia chiesto di essere difeso, io ho detto di no. È vero, ricordo. Ecco, la Torre è un caso diverso. La Torre peraltro lo conoscevo già da PM, perché l'avevo interrogato più volte da pubblico ministero a Palermo, perché aveva reso delle dichiarazioni che erano utili sul tema della famosa indagine sulla trattativa sadomafia che ancora oggi a Palermo sta proseguendo. Sì, e quindi dopo quando ha capito che si è pentito, ha deciso di difenderlo. Ma com'è nata? L'ha contattato lei? No, ovviamente. E lui mi ha contattato tramite i suoi familiari ha contattato il mio studio E ha deciso di farlo. Ha deciso, ma è questione proprio recentissima, che vabbè, è entrato un po' in circolo perché ha un'udienza in cui doveva essere sentito e lui ha reso noto che è difeso da me, ma ancora non ho avuto, sono stato così impegnato in quest'ultimo periodo che ancora non ho avuto il tempo di andare in carcere a fargli fermare il mandato. Ma senta un po', ma questo permesso, lei dice non è stata una vergogna, però vedere su Facebook addirittura... Beh, quella è stata diciamo una grave leggerezza, per usare una, userei probabilmente una parola più pesante, ma che perché è stata però responsabilità prevalente del figlio, è il ragazzo, si vede, si capisce anche dalla foto, se è il ragazzo che ha pensato di fare una cosa simpatica, di mettere la foto con il padre e metterla su Facebook e poi si scatena. Anche perché voglio dire, ha rischiato per la propria sicurezza, volendola proprio vedere, tra l'altro, visto che è un pentito, magari diciamo grave imprudenza per sé. È grave, diciamo, leggerezza un po' per tutti, perché poteva dare l'impressione, si vede in quell'espressione, qualche rilassato al telefono, quindi può dare un'espressione di un po' da sbruffone, così non è, sono convinto che non fosse questa la sua impressione. Senta, adesso che lei fa l'avvocato in Groia, come la vede la responsabilità civile dei magistrati? È una cosa buona, è una cosa giusta? Adesso che è dall'altra parte. Allora, io diciamo che sono abbastanza coerente, quindi dico la responsabilità dei giudici non funziona, questo è vero, e che molti cittadini che sono vittime di casi mala giustizia, perché non possiamo nasconderci che dei casi mala giustizia ci sono stati e ci sono, c'è il problema dei tempi, c'è il problema a volte della sciatteria professionale di qualche magistrato, i cittadini non sono sufficientemente difesi. Non credo però che sia questo lo strumento più idoneo, perché questo in realtà apparentemente dà uno strumento in più, ma in realtà a mio parere dà soltanto uno strumento in più per affollare di più le aule giudiziarie con altre cause, altri contenziosi che allungheranno ancora più i tempi e determineranno ancora di più lo scontento. E allora come si risolveva la questione? Visto che il problema c'era. C'è un problema innanzitutto di verifica e di valutazione seria della professionalità dei magistrati. Su questo possiamo dire che la storia del CSM e del modo in cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha valutato fino ad oggi la professionalità dei magistrati è un totale fallimento. Le promozioni dei magistrati avvengono o nella migliore delle ipotesi per anzianità, cioè in modo automatico, nella peggiore delle ipotesi per appartenenze correntizie o vicinanze a questo o a quel santuario politico. Questa è la dura verità. E i casi che ci sono stati gravi di magistrati che dimostrano appunto scarsa professionalità non viene in alcun modo sanzionato. E il cittadino che può fare di fronte a questo, che non cambia? Il cittadino rimane gabbato. Purtroppo, ma io dico, e lo dico anche ad alcuni miei assistiti da avvocato, che ritengono, alcuni di loro anche a ragione, di essere stati vittime di gravi errori giudiziari, che hanno visto quasi con sollievo l'entrata in vigore di questa legge. Io però li devo disilludere dicendo non è questa la soluzione. Non è questa. Purtroppo i cittadini sono sostanzialmente impotenti, perché il pallino è nelle mani della politica, in parte anche della magistratura, ma soprattutto della politica, con una riforma del CSM che si rinvia sempre e si cercano altre. Quindi quello sarebbe la chiave di tutto. Per concludere, in Groia, lei e la politica, esperienza definitivamente archiviata, conclusa, finita? No, diciamo che se per un periodo della mia vita ha costituito lo 0% quando facevo il magistrato, lo 0% del mio interesse, o il 5% del mio interesse, e poi è diventato l'80% del mio interesse per un anno della mia vita, oggi ne occupo il 20%, diciamo, del interesse. Seguo, partecipo, sto partecipando al dibattito interno alla sinistra sulla una futura aggregazione e coalizione politica e sociale, come Maurizio Landini e Stefano Rodotà stanno chiedendo, naturalmente. In questo momento, quindi si sente vicino a quell'area, Landini, non in prima fila, ma sicuramente da quella parte. Ma candidarsi un domani a qualcosa, magari non so, sindaco, No. Non le vedo in questo momento le premesse, faccio l'avvocato, lo faccio anche con passione, anche perché sto scoprendo un punto di vista diverso dentro il mondo giustizia che è sicuramente stimolante. Certo, diverso e per alcuni versi opposto a quello che ha vissuto per tanti anni. Va bene, la ringrazio Antonio Ingroia, ovviamente. Grazie in bocca al lupo per essere stato con noi. Vorrei sentire Giuseppe da Foggia, ci ha chiamato. Giuseppe, che c'è? Sì. Sì, buongiorno. È arrabbiato. Complimenti per la tua. No, sono arrabbiato. È incazzato nero per quello che ho sentito di Jerry Bianco. Là. Jerry Bianco, Jerry White. Allora, Jerry White con 3.200 euro al mese. Sì. Lui non riesce a lì. Io sono un artigiano pensionato. Sì. Non ho una casa. Pago un pitto, pago le bollette, prendo 680 euro al mese. E come fa? Vorrei chiedere a Jerry Bianco come cazzo si fa a vivere. E il signor Renzi dà ancora altri soldi nostri a questi senatori. Vabbè, Renzi in questo caso non c'entra il governo, li dà al Parlamento, non è, sono soldi del Parlamento. Comunque Giuseppe da Foggia, lei con la sua efficacia verbale ha detto la sua. Nicola da Padova, che vuole Nicola? Buongiorno Nicola. Buongiorno, buongiorno. Io spero di interpretare come il mio precedente persona che ha intervenuto. Lo sdegno di noi italiani a sentire queste cose. Dopo Mario Capanna, leader Democrazia Proletaria, adesso un leader del centro. Questi appartengono ai vecchi partiti, ai partiti che stanno mantenendo i vitalizi anche a coloro che sono stati condannati. Questi probabilmente dovevano essere il nuovo, il Renzi doveva interpretare il nuovo e dare una mossa. Ma Jerry White mica fa parte del Parlamento, fa parte, è il presidente degli ex parlamentari. Nicola, però torneremo su questo, è che devo fuggire. Devo scappare, c'è il traffico, bisogna correre. 24 mattino. Lavoratori, chi non lavora, non da ieri abbiamo iniziato l'esplorazione dei vostri lavori curiosi, simpatici, strani del futuro. Ci dovete stupire, raccontateci dei lavori che non conosciamo scrivendoci al 24 mattino @radio24.it. scriveteci, oggi c'è un lavoro. Io sono basito, Franco, intanto lo saluto. Franco, buongiorno. Buongiorno Mila. Tanto Franco è un pensionato, credo di capire, no? No, ancora no. Però quasi. Però sei inventato un lavoro, come lo definiamo? Ma veramente non è un lavoro nuovo, perché è un lavoro che risale più di 10.000 anni fa, prima del Neolitico. Cioè la raccolta delle erbe spontanee ad uso alimentare. Il cercatore di erbe spontanee. Cioè lei, Franco, va nei campi? Sì, vado nei campi, ho una discreta esperienza, per cui conosco le erbe a seconda della stagione, a seconda del luogo, e quindi le raccolgo, le pulisco e le porto a dei ristoranti. Ma che poi tra l'altro ho scoperto, ma diciamolo, non è pubblicità, chi se ne frega, sono ristoranti stellati, cioè ristoranti... Sì, beh, c'è uno nel mio comune che è Tavarnelle Val di Pesa, l'Osteria di Passignano, che è un ristorante stellato, poi ce n'è altri due a Firenze, l'Ora d'Aria e il Santo Graal. E ecco, che tipo di erbe raccoglie? Esempio, ce ne dica due o tre. Sì, beh, io ho cominciato tanti anni fa con dei contadini che mi spiegavano come si chiamavano, mi dicevano: questa è una ciscerbita, questo è un terracrepolo, sono gli strigoli, insomma sono tutti nomi strani che cambiano di paese in paese. E che cosa si fa con gli strigoli? Ecco, gli strigoli per esempio sono un'erba molto particolare che si usa per fare i risotti, si possono fare le frittate, poi ci sono le misticanze crude ovviamente che servono un po' a disintossicare dopo i grassi invernali che abbiamo ingerito. Ma ci vuole un'esperienza mica male, perché cioè, cosa va in giro con i libri, ha studiato sui libri l'esperienza? No, io devo questa esperienza a queste persone anziane che purtroppo molte stanno scomparendo, quindi hanno tramandato la tradizione. È una tradizione che si sta scomparendo. Io sono anche socio di Slow Food Firenze, orgoglioso socio, quindi stiamo cercando di tutelare la biodiversità, quindi questo fa parte anche del progetto sulla biodiversità di Slow Food. Mi sembra giusto, poi nell'anno dell'Expo è bellissimo, ma venga a Milano e promuova questa cosa, raccoglitore di erbe spontanee. Sì, certo. Cioè perché niente che si coltiva, tutto spontaneo ovviamente. Tutto spontaneo, quello che ce ne spontaneo. Mi dica quindi la più strana, la più rara, che quando la trova fa un salto, una capriola di gioia. Diciamo, per esempio, ci sono i raperonzoli in questo periodo che sono molto difficili da trovare e bisogna osservare le fioriture d'estate, quindi adesso i raperonzoli. La campanola Rapunculus, la nota fiaba Rapunzel. Certo, come no, Rapunzel, lo dirò a mia figlia, ci sono i raperonzoli, incredibile. Franca, un lavoro straordinario, il cercatore di erbe spontanee. Voi come ci stupirete? Con quale lavoro? 24 mattino e Radio 24.it. A domani. 24 mattino.